con Fabio Del Greco, regista del film Mistero di un impiegato, uscito in sala lunedì 4 febbraio 2019. Fabio, ben trovato. Bentrovato Federico e bentrovati agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci racconti brevemente la storia di questo film? Sì, dunque, Mistero di un impiegato è la storia di un impiegato, guarda caso, che si chiama Giuseppe Russo e che a un certo punto della propria vita scopre dall'incontro con un vagabondo su una spiaggia desolata che gli dà dei nastri VHS, che qualcosa nella sua vita non quadra. Da quel momento in poi entra in una crisi di identità e di valori assoluti per tutto quello che riguarda la sua vita e il mondo che lo circonda. E da quel momento in poi, insomma, vedrà su questi nastri VHS un po' tutta la sua vita filmata, ma che lui non ha mai filmato, quindi in questi nastri ci sono contenuti episodi della sua infanzia, adolescenza, giovinezza, che lui non ha mai filmato però, quindi da questo enigma, da questo mistero, ispirato un po' vagamente al cinema di Lynch e a tante altre cose, si sviluppa poi la storia del film. L'idea iniziale com'era venuta? Dunque, io e Massimiliano Perrotta, il mio sceneggiatore, drammaturgo teatrale, gliel'avevo raccontata questa mia idea diversi anni fa e insieme pensavamo al fatto che fosse un'idea cinematografica molto forte, visivamente molto importante, quella di far vedere attraverso materiale di repertorio che io ho accumulato nel corso di più di 30 anni di attività di filmmaking. Quindi partendo dal 1900, dall'estate del 1997 ad oggi, per vedere appunto l'evoluzione di un individuo a diverse età, con questi filmati di repertorio provenienti da cortometraggi, film mai finiti, film anche di famiglia. Però l'idea era difficile da trovare, perché questo materiale ognuno apparteneva a un progetto diverso, a un film diverso, a un cortometraggio diverso. Nonostante fosse amatoriale, quindi la mia di molti anni fa, era difficile trovare un filo conduttore per la storia. Dopo un po' di anni però che ci pensavamo, ci è venuta in mente questa idea e ho trovato un'idea molto interessante perché il tema dei condizionamenti culturali e vogliamo anche spirituali dell'uomo è un tema che mi coinvolge molto e pensavo che appunto ripercorrendo la storia attraverso questo materiale di repertorio fosse adatta e ci è venuta in mente la storia, cioè, su cui poter innestare questo cinema, diciamo, un po' di archeologia. Prima hai citato David Lynch, ecco, quali altri sono i riferimenti visivi o culturali? Ma io ho, diciamo, una vita che amo il cinema e quindi sono passato nel tempo attraverso vari riferimenti culturali. Diciamo che una buona parte della mia adolescenza ho molto il cinema di De Palma, Scorsese, poi andando avanti mi sono innamorato del cinema di Fellini, insomma di centinaia e centinaia di altri autori che sarebbe impossibile qui a riassumere. Nello scenario contemporaneo sì, mi sembra che David Lynch sia uno degli autori più coraggiosi, più sperimentali, credo che abbia raggiunto il suo apice con il film poi meno visto in assoluto della sua carriera che è Inland Empire, che secondo me è veramente un capolavoro che andrebbe studiato. E purtroppo il cinema è un po' molto maltrattato in questo periodo, non è insegnato nelle scuole, i giovani stanno un po' perdendo di vista cos'è il cinema di un certo tipo e il linguaggio di un certo tipo perché si abituano sempre di più alle serie, a YouTube, che io personalmente non apprezzo molto. Ecco, però il cinema di David Lynch, ce ne sono vabbè, tanti altri al giorno d'oggi, è molto interessante, quindi mi ha sicuramente condizionato, è la mia piccola opera. A partire dalla storia che hai raccontato, qual è secondo te oggi il rapporto tra uomo e tecnologia? Questa è una domanda veramente molto interessante che richiederebbe un approfondimento di un'ora. È un rapporto abbastanza inquietante. Da una parte, riallacciandomi al discorso del cinema, Oggi c'è un inquinamento appunto di culturale notevole che arriva dalla tecnologia, ma d'altra parte c'è un arricchimento enorme, delle possibilità enormi come la democratizzazione del cinema attraverso il video on demand di cui parlava Zavattini, che sta avverando adesso, anche se l'Italia forse se ne accorge ancora meno, un fenomeno più che sta avvenendo negli Stati Uniti ormai consolidato, però insomma la possibilità di creare delle opere al di fuori delle logiche industriali, della catena di montaggio, di poter comunque mostrare al pubblico che può apprezzare, che può essere interessato ai temi che tu tratti, è veramente un grande progresso della tecnologia. Quindi il rapporto dell'uomo con la tecnologia oggi è ambivalente, dall'altra c'è la possibilità di controllarlo in quasi tutti i momenti della sua vita, anche quando va al bagno. E dall'altra, certo, offre delle possibilità enormi di collegamento, di comunicazione e di coscienza universale. Fatto sta che ci sono molteplici episodi, a partire da Facebook e da altre società, che ci dimostrano che chi ha il potere tecnologico oggi, insomma, ci tiene un po' per la collottola. Quindi può diventare una cosa molto molto pericolosa ed è questo il tema che tratta il film. Dal 4 febbraio nelle sale, che uscita è stata? E quante sono le sale? Le sale per adesso non sono molte, sono 5-6 credo, e più che altro su Centro Italia. È un'uscita autodistribuita, quindi è un'uscita in cui oltre che realizzare il film, produrlo, lo stiamo anche distribuendo, quindi insomma limitata, ma che si potrebbe allargare, credo che il tema e il progetto in generale riscuote abbastanza interesse. Quindi insomma stasera sarà al Cinema Aquila di Roma, anche domani sera alle 21:40, a Pescara, anche al Cinema Masso, a Lanciano, a Narni e a Poggi Ponti per adesso. A questo proposito, ci lasci i riferimenti internet per saperne di più? Sì, potete andare sul sito di monitorefilm.com e cercare alla voce film la pagina di Mistero di un impiegato in italiano e lì ci sono pubblicati. Oppure Facebook, basta scrivere Mistero di un impiegato per trovare Facebook oppure scriverlo su Google direttamente. Ricordiamo il film Mistero di un impiegato in sala da lunedì 4 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabio Del Greco. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Sì, grazie mille Federico, un saluto a te e a Radio Onda Rossa e agli ascoltatori. Ciao. Ciao.